Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Sicuramente quando muore un grande artista il mondo diventa un po' più povero, ma in questo caso muore un grande artista, ma muore sicuramente anche un grande uomo, e allora l'umanità deve piangere due volte. Questo è un, come dire, un necrologio che ho sentito riferito a un mio caro amico, un grande artista, un grande uomo, che il 30 marzo 2017 ha terminato la sua parabola terrena. Come dice Redroni, si trova in un'altra dimensione, e lui c'è andato con la sua inseparabile chitarra, l'insanguinata, che è stata posizionata con lui perché non era pensabile separarle. Stiamo parlando di una persona che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere grazie a un mio fraterno e trentennale, più che trentennale, amico, che è Red Ronnie. La storia che raccontiamo oggi è quella del grande Fausto Mesolella, e io voglio proprio aprire con la persona che mi ha dato l'opportunità di conoscere umanamente e artisticamente Fausto Mesolella, e cioè Red Ronnie. Buongiorno Red. Ciao Enrico. Ciao, senti, questa per me è una puntata difficile, e come è stato difficile sicuramente per te raccontare Fausto poche ore dopo la sua scomparsa in una seguitissima e affettuosissima diretta che hai fatto su Facebook. Noi non abbiamo ancora iniziato a parlare di Fausto e c'è ovviamente molto da dire. Io però non posso che partire da un tuo ricordo personale di Fausto e degli ultimi attimi, insomma. Che cosa hai provato quando hai saputo che Fausto era improvvisamente andato, come dici tu, nell'altra dimensione? Io ho avuto la notizia, dovevamo partire presto, dovevamo partire domani insieme. L'ho chiamato, certo. E poi dopo due ore mi ha chiamato il dottore, il suo amico Alfonso, mi ha detto: guarda che Fausto è morto. Come è morto? Sì, il cuore ha smesso di battere. Ed è stato uno shock perché Fausto non era soltanto una persona strepitosa, ma era anche quello che David Crosby ha detto il miglior chitarrista che avesse mai visto, per come era completo, per come era. E la notte io ho voluto fare, proprio come esorcizzare tutto questo, una diretta. Ho iniziato a mezzanotte sulla mia pagina Facebook, a parte che ha fatto il record di persone collegate, ma c'è stato uno che ha detto: è stato un bel elogio funebre, perché praticamente tutti hanno avuto la possibilità di salire sull'altare e raccontare chi era Fausto Mesolella. Quindi tutti hanno scritto, al di là di quelli che hanno telefonato, al di là di Samuele Bersani, eccetera, al di là di tutti questi, c'era proprio le persone. E lì ho capito quante persone avesse aiutato Fausto, quante persone avesse incontrato, con quanti avesse suonato. E l'unica consolazione magra di tutto questo è quello che mi ha scritto, che mi stanno dicendo in tanti, che mi ha scritto anche Ivan Cattaneo: fortunatamente tu hai documentato il valore di Fausto, che altrimenti non sarebbe stato documentato. È vero. Se ne sarebbero accorti solo quelli che andavano a vederlo ai concerti. Tu stesso, Enrico, quando io ti dissi: vieni, tutto iniziò per un omaggio, certo, a Lucio Dalla, io ti dissi: vieni, tanto c'è Fausto Mesolella. Tu conoscevi Fausto Mesolella? Conoscevo, ma non sapevo quanto mi avrebbe arricchito cantare e suonare assieme a Fausto Mesolella, questo va detto. Ma e sono tanti i cantanti che, grazie a te, grazie alle tue trasmissioni, hanno avuto il piacere di fare musica con lui. Lui era la band residente di Roxy Bar. Esatto, da solo. E quindi, per dirti, mi ha chiamato Rita Pavone, gli aveva chiesto quando venne a Sanremo di andare con lui con lei in Brasile. Mannarino mi ha chiamato, mi ha tenuto il telefono mezz'ora. Cioè, una persona che ha lasciato, mi ha chiamato, ma la gente più disperata, la direttrice del teatro greco di Tindari in Sicilia, dice: il teatro a tua disposizione se vuoi fare qualcosa per Fausto. Cioè, si è scoperto che inconsciamente, fuori dai clamori di quello che sono i media più tradizionali, lui ha lasciato una traccia talmente forte che io stesso, che ero suo amico, che non me ne rendevo conto. È vero, vero. il suo tocco di chitarra. Tutti mi parlano di questo suo tocco di chitarra, di questo suo modo, di questa sua positività. Reda, noi proveremo a raccontare questa storia. Intanto io non posso che ringraziarti per avermi fatto conoscere Fausto Mesolella, e anche perché sicuramente la tua sarà una cassa di risonanza importante per un artista così importante. Ciao. E oggi noi dedichiamo a lui questa puntata, non solo per gli enormi meriti artistici, ma anche per quelli umani, perché oggi noi celebriamo il ricordo di un chitarrista straordinario, di un arrangiatore, di un compositore di canzoni bellissime, uno che ha suonato, cantato, che si è esibito con tantissimi artisti. Anch'io ho avuto l'onore, il piacere di essere accompagnato da lui, ma stiamo parlando di Nada, di Bocelli, di Gianna Nannini, di Bersani, di Tricarico, di Raiz, degli Alma Negretta, Fiorella Mannoia, insomma un elenco lungo, prestigioso, Rita Pavone, e anche il fatto che Mesolella è stato il membro fondamentale della piccola orchestra Avion Travel, che ha avuto molti successi, peraltro ha vinto anche Sanremo nel 2000, riconoscimenti di ogni genere, premi della critica. Mesolella ha realizzato colonne sonore per film che gli hanno valso diverse nomination, al Davide Donatello, ha vinto il Ciak d'Oro, insomma ha vinto grandi riconoscimenti per un uomo che è stato veramente speciale. Era all'inizio un piccolo cuore che linfa e destino premeva a fiorire, spalancò i petali e fu bocca e cratere, fuggirono parole, baci ed ore. Spalancò i petali e fu bocca e cratere, fuggirono parole, baci ed ore. E questa era la bellissima Tulipani, frutto di un progetto meraviglioso, musica di Fausto Mesolella sulle poesie di Stefano Beni. Ne uscì un album straordinario, io in tempi non sospetti ho detto che era uno degli album più belli degli ultimi 10 anni, un album che si chiama Canto Stefano del 2015, e anch'io peraltro ho avuto il piacere di cantare Tulipani al Roxy Bar di Red Ronnie poco dopo l'uscita dell'album. Fausto era nato a Caserta, aveva quel tipico accento morbido, avvolgente, ti conquistava col suo modo di parlare. Era un uomo che non ho mai sentito parlare male di qualcuno. E una cosa ancora più rara, soprattutto nel nostro ambiente, non ho mai sentito nessuno parlare male di lui. Di lui rimane la sua musica suonata con la sua chitarra, che lui chiamava l'insanguinata. Il falco. Il gabbiano. Fausto Mesolella nasce a Caserta 17 febbraio 53. Arriva molto presto il suo contatto con la musica. A 12 anni comincia a suonare la chitarra, la suona da autodidatta, non studierà mai, troverà sempre gli accordi da solo, e la cosa è veramente particolare perché lui trovava sempre l'accordo giusto, quello più poetico, più toccante, modificava le tue canzoni e però sapeva tecnicamente, quasi per una magia, andare a trovare il modo per cambiarle, commuovendo perfino quello che la stava cantando la canzone. E lui era veramente legato a uno strumento particolare, una chitarra che lui non abbandonerà mai e che infatti è stata, è con lui, diciamo, per l'eternità. Il termine compagna di vita, lui diceva, è davvero molto indicato, dovrà esserlo fino alla fine. Così è stato. Nel 2016 l'aveva festeggiata le nozze d'oro con questa chitarra. Era una Gibson Chet Atkins con corde di nylon a manico stretto, l'insanguinata. Era stato Samuele Bersani a ribattezzarla così. Ma torniamo indietro, il suo debutto come professionista era stato nel 68 con un gruppo che si chiamava I Condor. 4 agosto, matrimonio di un parrucchiere di via Roma a Caserta. È il primo colpo d'ala, lui lo dà con questi Condor. Poi il gruppo si scioglie, lui crea una nuova band, si chiamano Coronilla Varia. Poi il tastierista e il batterista litigano furiosamente perché il batterista arriva in ritardo, il gruppo si disgrega, insomma cose che succedono quando stai cominciando. Però lui non demorde, nel 70 forma un complesso che si chiama La Prima Pagina e per 4 anni suonano nelle feste da ballo, nelle feste di piazza, i matrimoni. Poi arriva Augusto Martelli che lo ingaggia per un'orchestra nel 74, poi lui fonda un trio, I Mediterranea, con il quale incide l'album Ecce Rock, che stranamente viene distribuito in Giappone. Insomma, è faticoso raccontarvi tutto quello che ha fatto Fausto Mesolella anche già in quegli anni. Cura gli arrangiamenti, le produzioni di molti cantanti italiani. Poi nell'86 un altro colpo d'ala, entra a far parte di una formazione molto interessante, la Piccola Orchestra Avion Travel. È un gruppo pop jazz che si distingue per la qualità del suo repertorio. Partecipano a Sanremo nel 98 con una bellissima canzone, Dormi e Sogna, con la quale vincono il premio della critica e della giuria di qualità per la miglior musica e il miglior arrangiamento. E con gli Avion Travel Fausto Mesolella inizia una collaborazione che alla fine durerà tutta la vita, grandi soddisfazioni nel vince Sanremo Rock. Insomma, c'è un continuo crescendo di questa band. Pepe Servillo, il cantante, fratello di Tony Servillo, lui collabora con entrambi. Poi arriva Caterina Caselli, arriva la Sugar, molti progetti importanti, album, tour in Italia e all'estero, e gli Avion Travel che vengono coinvolti in progetti cinematografici. E poi nel 2000 ritorna a Sanremo nella sezione campioni con un brano struggente che vince, si aggiudica anche il premio speciale per la giuria di qualità, e il brano si chiama Sentimento. Però al lato della importante partecipazione al gruppo degli Avion Travel, Fausto Mesolella, che è sempre attivo, detesta stare con le mani in mano, ha una vita artistica parallela ricchissima di collaborazioni. Dal 92 al 94 è in tournée con Paolo Belli, poi arriva Nada. Con Nada e Ferruccio Spinetti lui forma un, si chiama Nada Trio, ed è un ensemble che produce molto dal punto di vista di grandi concerti dal vivo. Ferruccio Spinetti che suona il contrabbasso adesso con Petra Magoni in Musica Nuda. E poi c'è una produzione di un cantante napoletano particolare che si chiama Alessio Bonomo. E poi l'album di Andrea Bocelli, Cieli di Toscana, me le devo leggere queste cose perché sono veramente tante. E poi lavora con Samuele Bersani, con Patrizia Laquidara, con Gianna Nannini, con Gian Maria Testa, scrive una canzone bellissima che si chiama Nastella, che lui interpreta in maniera commovente. Poi nel 2007 c'è un altro album con gli Avion Travel, Dance on Metropoli, che vede come direttore artistico Paolo Conte. È un album che ha un grosso successo. E poi c'è un altro colpo d'ala, la colonna sonora del film Lascia perdere Johnny, con la regia di Fabrizio Bentivoglio, che si ispira proprio a lui, a Fausto Mesolella, a episodi della sua giovinezza, al suo esordio come musicista. Per questa colonna sonora riceve il premio Ennio Morricone all'Italian Film Festival di Roma e viene nominato al Davide di Donatello nel 2008 e poi vince il Ciak d'Oro. Ma tu un lavoro ce l'hai? Sì. E che lavoro fai? Sono nell'orchestra di Maestro Falasco. E chi è sto Falasco? Comandava maestro. Allora pare che ci siamo tutti, Mo ci siamo tutti. Fausto Ciaramella, questo un giorno diventerà uno spaccino chitarrista, Bravo Fausto. Raffaele ci deve dare ancora tutti gli arretrati. Vabbè, non ti preoccupare, quella è verità. Stavolta ti devo fare una cosa grossa, mi devo pure interesse. Viene da Milano con tutta la sua orchestra, 30 persone. Tutti professionisti, Sai cosa ci vorrebbe? Un bello sciopero dei musicisti. Così almeno la gente capisce una volta per tutte com'è la vita senza la musica. Siamo soli, amore, baciami. E insomma, sono veramente tante le cose da raccontare di Fausto Mesolella. Pensate che lui all'inizio della sua carriera ha avuto un incidente d'auto, era con un furgone di una delle tante band con cui suonava, e il furgone si era ribaltato e la mano gli era rimasta sotto al furgone, e lui aveva sempre dei problemi a queste mani, che poi con gli anni erano diventati artrite o artrosi. Aveva sempre dei guanti, insomma aveva ovviamente veramente cura del suo patrimonio principale. Mano a mano che diciamo la sfortuna si accaniva sulle sue dita, lui sviluppava una tecnica per aggirare il problema con risultati eccezionali, se pensate a canzoni e esibizioni come questa. Il falco e il gabbiano. Questa di oggi è una puntata veramente particolare, perché è una puntata che saluta e omaggia un mio grande amico, Fausto Mesolella. Se n'è andato il 30 marzo del 2017, è un chitarrista, un compositore, un arrangiatore, un produttore, uno dei più grandi musicisti italiani contemporanei, componente storico della piccola orchestra Avion Travel, uomo di pensiero, è uomo che ha lavorato con molti dei più grandi artisti italiani, e noi stiamo cercando di ripercorrere le tappe della carriera di musicista di Fausto. È stata una carriera straordinaria che lo ha visto raggiungere momenti artistici altissimi. Dopo la colonna sonora del film di Fabrizio Bentivoglio Lascia perdere Johnny, lui realizza ancora altre colonne sonore cinematografiche nel 2010, prima per il film muto Il ladro di Baghdad, poi per Into Paradiso della regista Paola Randi, che gli vale un'altra nomination al Davide Donatello, e poi riceve targhe per l'album degli Avion Travel L'amico magico e premi per la canzone che scrive per Fiorella Mannoia Se veramente Dio esisti. Nel 2011 Tricarico arriva a Sanremo con una canzone che si chiama Tre colori, una canzone molto bella scritta da Fausto Mesolella, che sale sul palco dell'Ariston al pianoforte. E poi nel 2012 c'è un album che si chiama Suonerò fino a farti fiorire, poi l'album Live ad Alcatraz del 2013, poi inizia a lavorare con Raiz, la voce storica degli Alma Megretta, al CD Dago Reid, vince la targa Tenco. E poi nel 2015 un progetto meraviglioso che peraltro come dire, io avevo diffuso da questa trasmissione già altre volte in tempi non sospetti, come si suol dire, un album che si chiamava Canto Stefano con le poesie di Stefano Benni. Insomma, lui, Fausto Mesolella, non è mai stato fermo, ha sempre cercato nuove forme espressive rimanendo sempre fedele alla sua meravigliosa chitarra preferita, l'insanguinata, che era sempre al centro delle sue composizioni. Difficile fare una graduatoria delle collaborazioni di Fausto Mesolella, e poi la musica non ha graduatorie e noi non vogliamo farle, però insomma uno dei momenti più interessanti della sua attività di musicista è stato sicuramente la sua collaborazione con una cantante che io stimo molto, una musicista che io stimo molto, perché ha saputo con eleganza aggirare il mainstream per fare invece cose di peso ben diverso. Sto parlando di Nada, che abbiamo con noi. Buongiorno Nada. Buongiorno. Buongiorno. Senti, noi, come sai, insomma, stiamo facendo una trasmissione su Fausto Mesolella, e io non potevo prescindere dal sentirti, perché in qualche modo mi sembra che tra le tante meravigliose cose che ha fatto Fausto, la collaborazione con te, lui ne parlava sempre, insomma, sia una delle cose più interessanti e una delle cose alle quali lui teneva di più. Sì, credo che sia proprio così, in quanto non era proprio una collaborazione, era qualcosa di più. 25 anni abbiamo fatto concerti in ogni posto insieme. All'inizio eravamo con Ferruccio Spinetti, il contrabbasso, poi Ferruccio ha fatto dei progetti suoi e noi abbiamo continuato insieme. Mi sento fortunata di aver incontrato Fausto, che mi ha aiutato, sostenuto, capito, e per me è una perdita enorme che dovrò superare con il tempo, certo. Con il tempo, ma il tempo lavora per questo, la vita è così, e quindi io ho perso un amico, un fratello, un musicista, ma lui penso che avrebbe ancora dato molto alla musica, proprio l'ultimo disco di Fausto sì. Non sapevamo che sarebbe stato l'ultimo, chiaramente l'abbiamo registrato un mese fa nel suo studio a Caserta, sì. Avevamo ricomposto il trio, come, quindi ci sono solo due dischi del Nada Trio, il primo, e dopo 20 anni abbiamo fatto, certo. ci eravamo decisi a farne un altro, ci siamo ritrovati e abbiamo fatto questo che esce in questi giorni, e quindi questa è una cosa che all'inizio mi ha lasciato veramente lo so. Nada, tu ovviamente nella tua meravigliosa carriera hai suonato con tanti musicisti. Che cosa aveva Fausto di più? Perché io un'idea ce l'ho, cioè lui riusciva a tradurre delle sensazioni dell'anima in accordi belli, non so come dire, cioè trovava sempre l'accordo più poetico, l'accordo proprio nel senso di mettere giù le dita sulla chitarra, e in qualche modo aveva sempre una cosa più poetica tra le mille possibilità armoniche su una melodia. Ma Fausto era una persona speciale, una bella persona, un uomo eccezionale, perché un artista prima deve essere una grande persona. Certo. E tutto questo lui, siccome ce n'aveva tanto, lo metteva nella sua chitarra, entrava dentro le sue dita, e questo suono e questo ritmo che aveva lui, che era un ritmo di vita, era generoso, lui si dava molto, molto, molto, senza nessuna fatica, per lui era una cosa naturale, era bellissimo stare sul palco con lui. Ma poi aveva la capacità di, intanto non era snob, cioè lui grazie a Redroni ha suonato con artisti di qualità, di classe, di nicchia, e con artisti mainstream con la stessa passione, cioè non faceva distinzioni col ragazzino di 20 anni magari idolo di un talent, e col grande professionista con una decina d'anni, con decine d'anni di esperienza, lui lo faceva con lo stesso tipo di approccio. Per lui importante era la musica, tutto il resto non si curava. Poi naturalmente lui, attraverso le tante collaborazioni più o meno interessanti che uno ha fatto, comunque era sempre un modo per far conoscere il suo suono, la sua chitarra, il lavoro difficile che aveva intrapreso anche da solista, perché un chitarrista non è una cosa facile da solo, insomma, uscire già è difficile in generale, ma insomma lui invece ci stava riuscendo, ci sta con grande impegno, perché era una persona veramente speciale, e la sua chitarra era incredibile. Nada, non so come ringraziarti, ti mando un grande abbraccio e un bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. Ciao, grazie. E poi ci sono canzoni come quello che non voglio, dove lui dice non voglio morir poeta, insomma, che ovviamente dopo la scomparsa del protagonista assumono anche una connotazione ancora più intensa, ancora più dolorosa. E io vorrei aggiungere che Fausto Mesolelli è stato proprio un pensatore. Io lo seguivo sui social, su Twitter. Lui l'unica cosa che scriveva, come dire, di non conciliante era chiudete i talent, fate presto. Lo scriveva tutti i giorni insieme a un'altra frase, io vado avanti. E questa non era polemica, non era acredine, era semplicemente un messaggio che voleva cercare di riportare, insomma, alla musica, alla purezza artistica di anni nei quali non era importante il numero di persone che facevi, ma la qualità che avevi. Oggi noi assistiamo a diatribe tra gente che dice io ho fatto 2 volte il forum di Assago, tu solo 1 volta, io ho fatto 20.000 paganti qua, tu 18.000 là. Ecco, io vorrei ricordare a tutti questi giovani virgulti che per secoli la cosa di mettere dei testi su della musica è stata considerata un'arte, e Fausto Mesolella questa era una cosa che aveva ben chiaro. Naturalmente ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, cioè su Fausto Mesolella ci potrebbero essere decine di persone, però a me piace chiudere con un personaggio intanto interessante, di qualità, che a me piace molto. Ma al di là di questo, un conterraneo di Fausto è una persona che ha vissuto realmente un'esperienza di fraterna amicizia con lui, intanto perché ha fatto un album assieme a Fausto che si chiama Dago Red, però insomma perché è parte della sua vita. Sto parlando di Raiz. Ciao, buongiorno. Ciao, Raiz. Ciao. Voi avete fatto un album assieme, però immagino, anzi sono certo, anzi so, che il tuo contatto con Fausto è molto di più che un album fatto assieme. Ma in definitiva definitiva l'album arriva alla fine, diciamo, certo, a consolidare un rapporto che comunque si era creato negli anni, da quando abbiamo cominciato a suonare insieme. Abbiamo cominciato sul palco di Rita Marco Tulli, che è una jazzista che non ha bisogno di presentazioni. Certo. Lei portava avanti un progetto sui Pink Floyd, aveva chiamato me alla voce e Fausto alla chitarra. Questo già una decina di anni fa. E quando nel jazz sul palco si improvvisa, poi si fanno i duetti, poi si fanno gli assoli, e Rita fa: perché non fate voi un duetto? Io e Fausto ci siamo guardati e dice: beh, che facciamo in due? Facciamo, visto che si trattava di Pink Floyd, abbiamo fatto Shine on You Crazy Diamond. Sì. Chiaramente togliendo tutta la suite, no, che c'è intorno, certo. E facendo la versione da falò, certo. soltanto la canzone. E ci siamo divertiti, e da quel momento, un po' per scherzo, un po' perché ci faceva piacere stare insieme, insomma, c'era grande feeling musicale, abbiamo cominciato a fare questo piano bar, cover le più disparate, passavamo da Pink Floyd, Bob Marley, Mario Merola, insomma, ci mettevamo tutto dentro, canzone napoletana, quello che la canzone con la quale siamo cresciuti, abbiamo ascoltato là dove siamo nati, e poi tutto il resto, quello che poi è arrivato. Sì, perché lui era uno a 360 gradi. Ma senti, Reis, ma perché lui trovava sempre l'accordo più bello di tutti? Cioè, mi ricordo tante volte con Fausto negli ultimi anni, sai, grazie a Red Ronnie, no? E veniva fuori una canzone, Red, sai com'è Red Ronnie, che ti dice suonatela assieme anche se nessuno dei due sa bene cosa sta per fare, e lui trovava sempre d'accordo diverso, che mostrava un lato dell'anima della canzone superiore o comunque particolare rispetto a una canzone che magari aveva 20-30 anni. Che cosa aveva in più Fausto? Io credo che quando nasci e cresci in una situazione difficile, perché poi Fausto è stato un orfano, è uno che insomma è cresciuto non a casa, quindi è cresciuto in collegio, no? Sono tutte cose che fanno parte della sua vita privata, e chiaramente non sei una persona negativa, certo. In qualche modo riesci a fare luce, a migliorare laddove luce non hai avuto. Sì, certo. Uno sguardo positivo e di luce anche su una cosa che magari è soltanto mediocre. Ecco, lui questo faceva, era uno che si sollevava poi dal fango sempre, ogni volta la sua sola presenza musicale in qualche modo portava su di 10 gradini tutto quello che c'era intorno. Questo mi sembra di poter dire. È vero, e aggiungo quello che ci siamo detti l'altro giorno al telefono, cioè aveva un'eleganza anche quando capivi che stavi per parlargli di una persona che lui non stimava particolarmente, però aveva un'eleganza, cioè non parlava mai male di qualcuno, parlava con amarezza del fatto che forse a volte in questo paese, insomma, la musica potrebbe essere un po' più bella, un po' più nobile rispetto a quello che vedi nel mainstream, ma lo faceva sempre con grande eleganza, senza mai entrare in competizione. È una cosa che va detta ai ragazzi delle ultime generazioni, che la musica non è una rivalsa sociale, non è una competizione, è una disciplina meravigliosa che si fa e che ha dentro di sé la sua ricompensa. Ecco, Fausto era la prova vivente di questo. Raiz, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, sono contento di aver chiuso con te questo omaggio fatto veramente con affetto a uno dei più grandi musicisti che questo paese abbia mai avuto. Grazie a te, Rico. Grazie, ciao. Ciao. Sì, tanti colpi d'ala per un musicista che ha cercato di dimostrare, che è riuscito a dimostrare, che la musica è qualcosa di più nobile della lotta sociale per riempire un palasport. La musica è un'arte. Fausto Mesolella è stato uno degli ultimi testimoni di una battaglia che non si fa coi numeri, ma si fa con l'anima. Se volete mandare dei commenti, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24, oppure scrivete ai miei social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.